accanto al sole, vedo la notte, guardo all'alba, vedo il tramonto, aprire gli occhi e trovarsi altrove, senza avere intrapreso il viaggio, la nebbia che mi passa accanto e mi lascia sulla pelle nuda, cristalli di ghiaccio e la paura d'essere solo. Perché a volte arrivano quei momenti in cui non riesco ad essere vivo, è come fosse libertà apparente, senza la forza di volare, e faccio finta di inventare una storia dove sono il solo protagonista e la mia forza poco dopo si scioglie come neve al sole. Con il vento sferzante e soffrire un inverno come nascere ancora, mentre docile la nostalgia porta al pianto, mentre soffice la vita ti passa accanto, andando via con sé ogni momento. Guardo al sole, vedo la notte, guardo all'alba, vedo il tramonto. Guardo al sole, guardo all'alba, vedo la notte.